Pubblicato sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Alessandro Orofino, La scelta. Quanta scelta c'è data nella possibilità di non aver più paura, forse un lampo di coraggio, forse un pixel di stordimento, ma poi tutto torna come prima e tu ricominci a tremare. Sai di sbagliare, sai di aver scelto male, però quello è il tuo destino, avrai tanti binari, solo un'unica destinazione.